Thank you. Francesco 72. No, c'è un Francesco, io sono ricco. Vedi? Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.